francese. Distesi in Shavasana. Come sempre, quando anche a casa facciamo questa pratica, cerchiamo di agganciare mentalmente una condizione mentale alla postura. Ora vi spiego meglio nella guida della pratica. Cioè, che quando ci mettiamo in questa posizione, anche mentalmente, molliamo tutto ciò che non c'entra nulla con la pratica di consapevolezza. Quindi i pensieri, la giornata, tutto ciò che potrebbe disturbarci, distrarci. Leghiamolo anche alla postura, questo posizionarci distesi alla ricerca un po' del contatto con se stessi. Come sempre osserviamo in questa posizione osserviamo i due punti un po' più delicati, cioè la nuca, la parte del collo che potrebbe essere un po' in tensione e la parte bassa della schiena. E cerchiamo di sistemare bene con cuscini, con felpe, qualcosa, in modo da non avere tensioni. Il corpo piano piano dovrebbe andare sullo sfondo. Braccia lungo i fianchi, palme possibilmente rivolte verso l'alto, occhi morbidamente chiusi. Cerchiamo di rimanere a contatto con il respiro. E ad ogni inspirazione, quando l'aria entra nel corpo, cerchiamo di ascoltare bene l'aria che entra e ci nutre, porta alla vita. E quando espiriamo, quando l'aria esce dal corpo, cerchiamo di rilassare, di lasciare andare. Mentre osserviamo il ritmo del nostro respiro, rimaniamo in contatto con il nostro corpo. Cerchiamo di ascoltarlo attivamente, come se ci prendessimo cura del nostro corpo. E quindi immaginiamo proprio che durante l'inspirazione lo nutriamo, gli portiamo nutrimento. E durante l'espirazione, quando l'aria esce dal corpo, lo possiamo rilassare. Possiamo lasciare andare le tensioni. Inspiro, mi nutro. Espiro, lascio andare. Osservo con attenzione il corpo e se incontro delle tensioni, qualche contrazione, cerco di scioglierla. la mente riesce ad abbandonare le tensioni, a scioglierle, semplicemente osservandole, portando l'attenzione in quel punto. Espiro e lascio andare. Espiro e lascio andare. Osservo le braccia, le gambe, cerco di ammorbidire il ventre, il torace, rilasso la schiena, le spalle. Osservo con attenzione il corpo, perché il corpo si fa sempre carico delle nostre tensioni. Il corpo è silenzioso, ma si carica delle tensioni della giornata. Quindi è giusto che ci prendiamo cura del corpo ed osservandolo, portando attenzione, proviamo a rilassare. Proviamo ad ammorbidire queste tensioni, queste contrazioni. Il corpo è sempre al nostro servizio. Proviamo ora noi a dedicare un po' di tempo e metterci a servizio del corpo. Lentamente il corpo tende ad andare sullo sfondo, quasi a scomparire, a dissolversi. Va bene così. A mano che il corpo si dissolve, noi cerchiamo di osservare solo il ritmo del respiro. Ci appoggiamo completamente al ritmo del nostro respiro, un ritmo che si è fatto più profondo e regolare, un ritmo che ci dà grande pace, grande serenità. ed ora lentamente iniziamo a riprendere contatto con il nostro corpo, come siamo soliti fare, con piccoli movimenti delle estremità, le dita delle mani, le dita dei piedi. Piano piano torniamo a sentire le braccia, le gambe e a riabitare il corpo, fino a quando sentiamo che è giunto il momento di riaprire gli occhi. Solo allora, una volta riaperti gli occhi, riprendiamo contatto con la realtà circostante. E non appena sentiamo che per noi è venuto il giusto momento, possiamo rimetterci seduti sul tappetino, ricordando di ruotare su un fianco per non danneggiare la schiena. Lentamente, senza fretta. Di mantenere questa compattezza, di non perdere il momento di consapevolezza, ci mettiamo seduti nella nostra posizione di meditazione. Ci diamo sempre qualche istante per sistemare i vestiti, per sistemare bene il corpo, fino a quando non sentiamo di aver raggiunta una certa stabilità. La schiena è sufficientemente diritta, mento lievemente abbassato, occhi morbidamente chiusi. Qualche minuto di pratica silenziosa, non vi guiderò, ma al termine della pratica vi richiamerò. Cerchiamo solo durante questa pratica di evocare, di richiamare, di nutrire un pensiero di gratitudine. Gratitudine per aver percorso questo cammino assieme, per esserci concessi del tempo per approfondire la conoscenza di noi stessi. Quindi per qualche minuto in silenzio, lasciando affiorare un pensiero di gratitudine. consentiamo di poter riaprire gli occhi. Bene. Com'è andata? C'è una luce? E andiamo al tema di questa sera, che è un tema abbastanza importante, soprattutto per il prosieguo della vostra pratica, cioè, diciamo così, per quello che sarà il poi, finito questi percorsi. Tutte le cose che vedremo, se continueremo a camminare un po' assieme, extra percorso base, sono tutti tasselli in più che vi danno un po' di pratica, un po' di metodologia, un po' di teoria, ma abbiamo detto che la pratica di base è molto semplice, no? Anapanasati, quindi respiro corpo e lì si sta. Però la mindfulness, come già ho avuto modo di dirvi, ha tutta una serie di pregi, ma diciamo che arriva fino a lì. I pregi sono innumerevoli, non sono io a dirlo, ma se vogliamo procedere e farla diventare un tassello del nostro percorso di autoconoscenza, la mindfulness, così come le altre pratiche meditative, ci aiutano, ma dobbiamo fare un discorso anche un po' più ampio. E allora il buddismo ci viene incontro col Satipatthana, che sembra una parolaccia, giusto? Il Satipatthana è praticamente i quattro stati della consapevolezza o della trasformazione consapevole. Fanno parte proprio del, diciamo così, dello sviluppo teorico di questo processo che ci accompagna nell'autoconoscenza. L'abbiamo visto in qualche modo l'altra volta, in cui vi ho raccontato che la progressione è stare sul respiro del corpo all'inizio, perché abbiamo la consapevolezza del corpo, la consapevolezza delle sensazioni, la consapevolezza dei contenuti mentali e la consapevolezza della mente, no? In una progressione che io ho anche provato ad accennare come una specie di continuare a retrocedere per osservare come la realtà sia in qualche modo caduca, no? Sia transitoria più che caduca, no? Cioè, tutto in qualche maniera nasce e si manifesta e dopo svanisce. Tutto, il corpo lo sappiamo bene, anche se la finestra è abbastanza grande, perché non so, si spera di stare qua 80, 90, 100 anni, si spera, però le sensazioni del corpo quando sorgono hanno un loro sviluppo e poi scemano, no? E così come anche i contenuti mentali e così come la mente. No? Da questo punto di vista, allora, il percorso buddista ci dice che per una trasformazione consapevole è necessario posizionare, porre quattro attenzioni, quattro punti nella nostra pratica, che ora vi leggo e vi commento. Questo testo è tratto, questo adattamento è tratto da una parte di un testo che io consiglio quasi come propedeutico a chi vuole andare avanti, forse ve l'ho già nominato, che è Un cuore saggio di Cornfield, È un testo base, fondamentale, che non è troppo buddista e nel contempo pesca da lì per dare una visione, insomma, della pratica. Allora, il primo passo per la trasformazione consapevole, cosa significa? Significa che per entrare in uno stato di consapevolezza è necessario che ci sia in noi una trasformazione di atteggiamento. Cioè la pratica meditativa, vedete adesso cominciamo a portarla fuori, ci dovrebbe portare tutto questo percorso di cui abbiamo parlato finora, di centratura, stare nel presente, osservare la sentinella, vi ho fatto una testa tanta, no? In questi 2 mesi, ci dovrebbe condurre a cominciare ad avere un atteggiamento diverso rispetto alla realtà che ci circonda. Il primo atto è il riconoscimento, quindi lo potremmo chiamare anche l'accorgersi di tutto ciò che sorge. È il primo passo del portare l'attenzione a un dato fenomeno corpo-mente, a un dato aspetto di noi e della nostra storia. Quindi il primo atto è l'accorgersi, il riconoscere che non tutto ciò che osserviamo non è altro che un fenomeno mente-corpo che fa parte o di noi o della nostra storia. È chiaro? Che differenza c'è di noi e della nostra storia? Del noi di questo momento, oppure il riprendere un antico ricordo che in quel momento si riflette nel corpo, ok? O anche una proiezione. Questo è il primo atto. Una volta svolto questo primo atto, il secondo atto, perché quando sorgono questi momenti o queste emozioni o queste sensazioni, in noi c'è, diciamo così, la doppia modalità che abbiamo già esplorato bene, che è quella dell'attaccamento o della repulsione, giusto? Fermatevi dove non ci sono delle lacune, perché è importante, questo è proprio lo svolgersi della pratica, anche fuori, non solo dentro, cioè anche non solo tra il cuscino della meditazione, ma anche quando mi accadono delle cose nella vita di tutti i giorni. Il secondo atto è l'accettazione. È un'attitudine che va coltivata e monitorata costantemente. E a cosa serve? È utile a neutralizzare l'avversione e la reattività per consentire un'esplorazione più profonda. Solo qui potremmo fermarci un mese, perché questo riguarda tutto il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Ma il primo insegnamento da dove viene? Dal corpo. Abbiamo detto che la base di tutto sono corpo e sensazioni, vero o no? Quindi nel momento in cui sono immerso nella pratica e la prolungo, potrei avere un dolore. Abbiamo detto che potrei avere un prurito, potrei avere una piccola tensione, una contrazione. E in che modo noi non accettiamo questa cosa? Ci muoviamo? Ci grattiamo? Andiamo a massaggiare? Questa è la metafora del non accettare il resto della nostra vita. Parte in noi la reattività. Quindi quando noi sentiamo che una parte di noi non ci piace, che un nostro modo di essere non va bene, quando dialoghiamo con qualcuno e ci sentiamo arrabbiati, dialoghiamo, discutiamo, oppure anche, non so, i fatti del mondo ci fanno sorgere rabbia, rancore, tutte quelle emozioni che abbiamo, ansia, tristezza, eccetera, eccetera, cosa accade in noi? È perché rifiutiamo, quindi è scattata l'avversione verso questa cosa, questa emozione, questa parte di noi. Ma il primo atto, guardate, è fondamentale. Il primo atto accade nel corpo. Quando noi assumiamo la postura della pratica meditativa e se ci viene da grattarci, ci grattiamo. Se ci fa male un ginocchio, andiamo subito a sistemarlo. Se abbiamo la schiena, subito lì a metterci la mano. Quello che invece dobbiamo provare a fare inizialmente, proprio come metafora della nostra relazione con la realtà esterna, è riconoscere e accettare, accogliere. Vuol dire che per un po' non dobbiamo diventare dei martiri dobbiamo, per un po' stiamo con quel dolore, per un po' stiamo con quel prurito, per un po' osserviamo quella contrazione, quella tensione. La osserviamo e la accogliamo come una parte di noi che in quel momento si è ribellata alla pratica. Cosa si è ribellata alla pratica? Nel corpo sarà un muscolo che fa male, sarà una... Io forse ve l'ho già detto, nonostante praticassi da tanto tempo, quando ho cominciato a fare i tiri lunghi, per un lungo periodo ho avuto la scapola destra che io mi mettevo giù in meditazione, in questa posizione qua, ormai già un praticante abbastanza avanzato, e mi arrivava una coltellata nella scapola destra, cioè tra l'intersezione della scapola e il muscolo sembrava che qualcuno mi infilasse un coltello, un dolore lancinante. E inizialmente mi spostavo, mi grattavo, eccetera, e poi il mio maestro mi ha detto, di quell'epoca, mi disse: il dolore è un grande maestro, quindi rimani nascosto, stai vicino al dolore. È il primo maestro nella pratica meditativa e anche nella vita. Guarda caso, in 2 giorni scomparve. 2 giorni però. 3 forse, se non ricordo bene. E non è più apparso, non è più riapparso. Quindi il primo atto è accorgersi e accogliere. Ecco, anche qui ci sono insegnanti talebani, io non lo sono, nel senso che si accoglie fino a che non ce la si riceve più. E poi se è un dolore forte ci si alza, ci si massaggia, oppure una gamba che muore ci si alza, ci si massaggia, perché c'è anche la postura che non è ancora consolidata. Quindi esploriamo a piccoli passi, cioè, ma ogni volta misuriamo il nostro confine e mettiamo un piede più in là, sia come tempo che come soglia del dolore, ok? Il terzo punto, perché a questo punto abbiamo già intrapreso un'altra strada, la normale strada è quella di rifiutare, quindi anche quando noi abbiamo una discussione e quella parte di noi che sorge arrabbiata, intristita, eccetera, perché è quello il bello. Col corpo è come se ci cominciassimo a intraprendere un nuovo modo di approcciare alle cose, quando facciamo con il respiro corpo. Quando invece cominciamo a fare questo approccio alle persone, alle cose, alle notizie, al mondo, cambia proprio la prospettiva, è una nuova prospettiva trasformativa. Ecco perché si chiamano i 4 gradi di trasformazione consapevole. Perché una volta che abbiamo accolto, cioè ci siamo aperti a questa esperienza, non più giudicando o arrabbiandoci o facendoci travolgere dall'emozione negativa o distruttiva, ma sentendo che è una parte di noi che si è manifestata, semplicemente il terzo passo è l'investigare. È un atto di investigazione. Che cosa significa? A questo punto siamo nella visione profonda, cioè siamo nel Vipassana o mindfulness, se abbiamo dei tempi un po' più ridotti. E che cos'è? La visione profonda o visione dell'insegnamento, il Dharma, è l'investigazione portata in maniera sempre più radicale ai 4 fondamenti della consapevolezza, cioè corpo, sensazione, mente e fenomeni mentali. Cioè, dopo questo riconoscimento, dopo aver accolto, quindi non rifiutato, non fatto finta che non esista, non autogiustificati o autogiudicati, perché è sempre così, noi ci distacchiamo da queste cose giustificandoci o giudicandoci. e in qualche modo sostenendo l'ego, la personalità. Mi seguite su questo campo? Abbastanza chiaro? Bene. Invece qui ci apriamo all'esperienza. Aprirsi all'esperienza significa che a questo punto, tolte tutte queste barriere, che sono le nostre emozioni che ci travolgono, in cui noi ci autososteniamo o ci autodenigriamo, tutte queste robe qua le abbiamo tolte, schiarite. A questo punto si apre l'esperienza. L'esperienza cos'è? Cominciare ad osservare che questi sono tutti solamente fenomeni. Fenomeni transitori. Ed iniziamo dal corpo, e piano piano tutto il nostro corpo sarà morbido, e poi iniziamo dai fenomeni, cioè riusciamo a stare in osservazione di tutto ciò che accade fuori di noi. Questa è un'esperienza importantissima e fondamentale nella pratica, perché ci fa vedere come il vecchio meccanismo, che è ancora attuale, ma quel meccanismo è un meccanismo che semplicemente ci porta via con sé. Al sorgere di quella emozione o di quel pensiero, in noi scatta la reattività, e quella reattività ci identifica, torniamo sempre a quel concetto, con quel contenuto mentale. Quel contenuto mentale si ammanta di un'emozione, e se è negativa o distruttiva, quell'emozione ci trascina con sé. Questo nel tempo si trasforma in un tratto caratteriale, in un'abitudine, poi in un tratto caratteriale, poi in una linea di minor resistenza, e quindi affronteremo la vita in quel modo, che può diventare o uno scatto d'ira dietro l'altro o uno stato semidepressivo o depressivo, dipende un po' dalla colorazione che ha la prima emotività che abbiamo messo in campo. È abbastanza chiaro secondo voi? C'è qualche dubbio? Qualche perplessità? Sta in piedi? Quindi il terzo passo è proprio questo: investigare. Investigare non è una roba con la lente che vai a vedere, semplicemente si sta aperti e si osserva come tutte queste sono esperienze transitorie, e da lì nel tempo nascerà intuitivamente una visione completamente diversa della vita, e ci comincerà a pensare: beh, ma se riesco a stare nel corpo e ho capito che tutti i fenomeni del corpo arrivano e vanno, se anche tutti i pensieri arrivano e vanno, ma allora io sono altro da questo. Ok? Deduzione abbastanza semplice. Poi su che cosa sono altro da questo lasciamo perdere, se no ci ingegnepriamo. E da lì il quarto e ultimo passo. Quarto e ultimo passo è la non identificazione, che un po' già un pochino l'ho anticipata, cioè è il lasciar andare la presa dell'ego, lo sviluppare la capacità di distacco equilibrato, quindi non cinico, distacco equilibrato. Cioè non c'è cinismo, questo lo studieremo meglio quando faremo i Brahmavihara, ma non c'è cinismo, non c'è un allontanarsi. Il cinico fondamentalmente è un pauroso, è guidato dalla paura il cinico. Se voi fate caso, il cinismo come l'indifferenza sono qualità negative, perché non c'è un radicamento e un affrontare con coraggio la vita, con un distacco equilibrato, ma c'è un grande timore, e quindi si sollevano una barriera e si trasforma in indifferenza o cinismo. L'indifferenza e il cinismo alle spalle hanno una emozione negativa distruttiva, hanno una grande paura della vita, ok? E non si trova altro modo per difendersi da questa paura della vita che nel diventare cinici. Questo è molto semplice anche da dedurre. Qui non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando dell'esatto contrario, cioè di immergersi profondamente nella vita con tutto quello che comporta, consci del fatto che non si è noi non siamo questi fenomeni mentali. Questi fenomeni mentali fanno parte della nostra esperienza, ma non siamo noi. Il detto evangelico è sempre valido in questi casi, eh? Siate nel mondo, ma non del mondo. È il lasciare andare la presa dell'ego, lo sviluppare la capacità di distacco equilibrato, di non reattività, di non considerare ogni evento mentale, corporeo, relazionale come io e mio. La ripeto questa. Cioè, questo non identificarsi è quindi un lasciare andare la presa dell'ego, della personalità, in modo da non considerare ogni evento mentale, corporeo e relazionale come io e mio. Cioè, ad esempio, in questa condizione non sviluppiamo più i lati caratteriali della personalità, dell'ego. Non si sviluppano più, soprattutto quelli negativi distruttivi, perché gli togliamo l'energia. Così come anche tutta una serie di emozioni possessive che abbiamo repulsive che abbiamo nei confronti della relazione. Abbastanza chiaro? Relazione con l'altro. Certo. Anche con l'oggetto. Certo. Relazione col soggetto, relazione con l'oggetto. Con la realtà percettiva. Che comporta probabilmente tutte e due le cose. Tutte e due le cose cosa? Perché sto pensando, sì. Tu dicevi, allora c'è secondo me un oggetto, un soggetto. Soggetto fosse la personalità, quella che tu chiami personalità, l'oggetto. L'ego. Ecco, l'oggetto invece è la mia emozione, può essere la mia emozione l'oggetto. Poi c'è qualcos'altro, c'è una cosa che dovrei essere, che è quella che io sto cercando. Quella è un'altra cosa, nel senso che ciò che dovrei essere lo sono già, solo che non lo so. Ok. Io sono già. Sì. Quell'essere, ma in me c'è una sovrastruttura mentale emotiva, sì, che da quell'essere mi tiene distante. Questo lo so, cioè questo l'ho trovato. Bene. Questa cosa l'ho trovata, è solo che dopo questa cosa deve essere maggiore, cioè io voglio conoscere di più questo essere, questa cosa che io la voglio conoscere di più. Perché secondo me, se la conosco di più e vado più in profondità, io posso non avere quella repulsione e attrazione di cui tu parli. Cioè, c'è l'intensità che, certo, che porta a qualcosa di più interessante. Allora, finché c'è attrazione e repulsione, non c'è quella che tu chiami conoscenza di sé. Perché quella conoscenza di sé è un sentire il sé. La conoscenza è sempre un atto esterno che si svolge proprio tra un'entità e il conosciuto, mentre in questo caso non si tratta di conoscere ma di sentire. Sentire significa che io mi sento di essere, mentre l'atto del conoscere non è un sentire. Nel momento in cui si sente, non c'è più bisogno di altro, tutto il resto è fenomeno. Fenomeno, mi intendete su cosa significa, no? Fenomeno è qualcosa che accade, ma che ha uno suo svolgimento, un suo tempo. Mentre quando si sta nel sentire, si è oltre il tempo. Ma io sento che sento. Sì. Io sento che sento, però sento poco. Cioè, ho l'impressione che sento troppo poco, vorrei sentire di più. Allora, da come dovrebbe essere, o si sente o non si sente? Io invece ho l'impressione che si senta, l'idea che mi sono fatta io, ecco, che si senta a livelli. E quello quella è mente. Oddio. Quella è mente. Il sentire che intendo io è acceso o spento. Noi siamo sempre nello spento. Se no l'illuminazione accadrebbe per gradi. Ma l'illuminazione non accade per gradi, accade. Ma allora perché se fosse come dici tu, sì, cioè significherebbe che io non dovrei fare tutto questo lavoro. No, per infatti non dovresti. È come avere un'intuizione per scoprire una formula matematica. Tu fai 10 anni di lavoro per scoprire una formula, no, e quella formula accade in un attimo. Cioè hai quell'intuizione in un istante in cui tu capisci che quei 10 anni di lavoro sono stati inutili ma essenziali. Senza di quelli non sarebbe mai capitato, ma quello capita nonostante quelli. Mi avete seguito su questa cosa? Sì, però io vedo che è lì. Io vedo che è lì. Finché la vedi che è lì, è distante da te. Però io, cioè questi 2 anni di meditazione, sì, a che cosa mi sono serviti? Io sento che sento di più, una volta non sentivo così. Ma allora, no, ma certo, certo. È un prepararsi a... Qui entra un concetto fondamentale che, sul quale io non dovrei che non dovrei portare nel corso base, ma insomma, va bene, che è il concetto molto cristiano di invocazione ed evocazione. Che, ne avete mai sentito parlare? No. Il concetto di invocare il divino è un concetto che viene molto abusato, cioè Dio fa questo, fammi questo perché sto male, fammi incontrare la persona della mia vita, voglio un nuovo lavoro, eccetera, eccetera. L'invocazione, quella vera, quella reale, cos'è? È un atto nel quale io mi apro al divino, ma non pretendo che il divino arrivi o si manifesti. L'evocazione non è nelle mie mani. Il tema del controllo e il tema della proiezione sono assolutamente da mettere in campo in questo caso. Io faccio tutto ciò che è possibile perché qualcosa accada, senza alcuna pretesa che ciò accada. Se c'è anche un grammo di pretesa, quello è attaccamento. Finché c'è un grammo di attaccamento, l'illuminazione non arriva. E se io penso, come dice la religione, che mia madre era religiosissima a modo proprio suo, che il divino, cioè è lui che pensa, allora io attribuisco che c'è un divino che lui pensa per me. Neanche questa è una forma corretta. Se il divino pensasse, avrebbe una mente che pensa. Una mente che pensa non è del divino, ovvero è una mente che a noi sfugge completamente. Sa lui cosa vuole, sa lui cosa è bene per me. Ma io non la metterei neanche in questo caso. No, ma te la dico per come mi hanno condizionata in questa maniera. Ah, ho capito. Certo. Ma lasciamo perdere queste cose, insomma, lasciamo perdere, non hanno peso. Ovvero ne hanno, ma perché è una verbalizzare dei temi che sono metafisici e che sono difficilissimi da verbalizzare. E quando si arriva a quei livelli là, l'unica è il silenzio e lavorare. E non pretendere mai che accada qualcosa. Infatti, se avete mai avuto un'intuizione nella vostra vita, non di carattere spirituale, un'intuizione nella vita, vi sarete accorti che capita, non capita mai finché state lavorando su quella roba là. Mai. Io sono un informatico, vivo di intuizioni, e forse è anche per quello perché nella mia vita da informatico ho cominciato a ragionare su come funziona la mente. Ma le soluzioni dei software che ho scritto, le migliori soluzioni, non sono mai capitate in ufficio, una volta mai, di notte, in macchina, con gli amici, fuori al bar, madonna, mi è venuto in mente come risolvere quel problema, aspetta, carta, cameriere, penna, sempre così. Ma tutte queste cose, l'esempio più stupido è sempre quello delle chiavi della macchina, non trovo più le chiavi della macchina. Più ci pensi e meno ti viene in mente. Nel momento in cui stacchi la testa, trac, vero o no? Ma perché l'intuito funziona così? A livelli altissimi, che sono quelli spirituali, noi lavoriamo sulla pratica meditativa, sul placare la mente, sul preparare le condizioni perché accada una cosa. E poi ci mettiamo in attesa. Quanto? 5 vite. Mai pensare o volere che accada qualcosa. Quindi si lavora e si tace, praticamente. Ecco. E se sarà il momento giusto, quella ricompensa apparirà. Poi, come dici tu, c'è una gradualità in effetti, ma quella gradualità è a salti, non è una progressione, è a salti. E l'esempio che si fa in chimica è molto semplice. Quando è che l'acqua evapora? A 100 gradi, non a 97 e mezzo, non dai 20 ai 30 non evapora, eh? Da quel momento perde la sua natura grossolana e diventa vapore. Tac! Quando tu inneschi energia, l'elettrone passa ad una orbita più elevata. Sapete come funziona, no? Ma devi iniettare energia, energia, energia, energia, energia, energia. Quando arriva a quella esatta qualità di energia, quantità, tac, fa un salto. È la stessa, guarda, tanto in alto quanto in basso. La legge di Hermete Trismegisto. Questo però mi sembra un discorso prettamente maschile, scusami, come psicologia. Allora, io a un certo punto della mia vita ho cominciato a pensare che non mi interessava il colore in sé, ma le sfumature, anche nel mio mestiere, io ho capito questo, dal mio lavoro, che la sfumatura era tanto importante quanto quella cosa lì. Allora, invece, il discorso tu me lo fai, è importante quella cosa lì, e come, sì, la sfumatura c'è, però non ha come valore. Io invece sento questo, cioè io sono partita da un punto che non era questo, e tutto il lavoro che ho fatto mi ha portato a fare questo. Quindi per me la sfumatura è fondamentale, perché è come il desiderio di una persona che vuole arrivare da qualche parte con le difficoltà che ha, tutte le difficoltà anche grosse. Ma quella, quando io mi sposto, lo spostamento è importantissimo ed è nella sfumatura. Allora, quindi, non mi pare di aver detto un'altra cosa, forse ci siamo. No, mi pareva che il valore fosse arrivare lì, no? No, arrivare lì. Non ho mai detto questo. Io ho detto che il valore è nel lavoro che fai, non nell'arrivare. L'arrivare non è nelle nostre mani. Però io non voglio avere quella roba lì così. Cioè, se dopo arriva va bene, ma il lavoro di ogni giorno mi interessa. È quello che ho detto io, eh. Sì, no, mi pareva che fosse legato. No, la meta. Invece io non lo penso, penso alla sfumatura. Sì, sono i 10 anni che dicevi tu. Sì, no, cioè, tutto il lavoro che facciamo è solo esclusivamente un praticare e un dedicarsi a noi stessi, alla pratica, alla relazione, non solo alla pratica meditativa, anche allo studio, chi si sente portato per lo studio, ma lasciando perdere la meta, perché la meta non è nelle nostre mani, non sappiamo quando arriverà, non sappiamo se arriverà. E certo. Cioè, arriverà quando sarà il caso e quando sarà il momento. Ecco, questo percorso, tornando a noi, è in qualche maniera il riassunto del percorso, cominciando dalle piccole cose, cioè cominciando dalla pratica di tutti i giorni e anche dalla relazione di tutti i giorni. Perché? Perché questo modo di vedere la vita pratica di tutti i giorni, cambia totalmente il nostro punto di vista. Perché? Perché smettiamo di essere dipendenti da tutto ciò che accade fuori, ma cominciamo ad osservare tutto ciò che accade dentro. Queste sono le condizioni che dovremmo ricreare interiormente per avere un'altra relazione con il fuori. E fuori intendo tutto, intendo anche corpo ed emozioni, corpo e sensazioni. Per me fuori anche quello. Perché? Perché attualmente invece siamo molto immersi in tutto il nostro mondo emotivo. Allora, si tratta di un processo evolutivo che ha un movimento a spirale, nel senso che gradualmente si accede a livelli sempre più profondi e sottili di riconoscimento, accettazione, investigazione e non identificazione. Il processo conduce a maggiore libertà interiore, alla pace mentale, allo sviluppo di stati altruistici come la gentilezza e la compassione. E io aggiungerei, Questa è la base, il fondamento da cui può poi nascere un contatto più profondo col nostro sé, sé quello scritto con la S maiuscola. Da dire anche che quando si parla di livelli sempre più profondi e sottili di riconoscimento, lo si vede innanzitutto dalla nostra relazione col corpo. Vi accorgerete, questo ve l'ho già anticipato qualche volta, che inizialmente quando noi parliamo di osservare le sensazioni del corpo sarà un'osservazione molto grossolana, cioè sentiamo il peso, abbiamo detto un fresco, caldo, un dolore, un formicolio. Piano piano noi riusciremo ad individuare sensazioni mai provate prima nel corpo, sottilissime, quasi impercettibili inizialmente, ma che piano piano il silenzio del corpo e il silenzio della pratica faranno affiorare sensazioni mai vissute prima, molto sottili, quasi rarefatte, piccole venature, piccoli formicolii e fremiti, righe di energia, rivoli di energia nel corpo, cose che magari attualmente risultano molto difficili. Perché? Ma semplicemente perché c'è ancora un contatto grossolano con il nostro corpo, così come c'è un contatto grossolano con la realtà. Perché noi, un po' per come siamo stati cresciuti, un po' perché non abbiamo mai fatto pratiche di questo tipo, abbiamo un rapporto molto grossolano con la realtà e con le relazioni. E quindi cataloghiamo tutto in 4, 5, 6 grosse emozioni, non sappiamo neanche dare un po' neanche le sfumature, neanche sentire più approfonditamente. Vi accorgerete nel tempo, qualcuno di voi magari avrà già avuto qualche sensazione, che c'è una nuova attenzione rispetto alla realtà di tutti i giorni, una nuova attenzione rispetto all'altro, rispetto a quello che accade attorno a me. Non so se già qualcosa sta emergendo, ma vedrete che più andate avanti e più questa sensibilità non si acuirà solo nel corpo, ma anche nella realtà fuori di noi. Ok? E rispetto a queste, alle parole che tu dici che hanno un valore, quali potrebbero essere le parole dell'emozione, che non è un'emozione tra virgolette patologica, ma un'emozione del sentire più sottile? Quali possono essere le parole? In che senso? Quali possono essere le parole che ti dicono che tu provi quella cosa, quando tu provi quelle sensazioni sottili che dici? Come potrebbe essere chiamata quella sensazione? Sensazione sottile o con un aggettivo? È aggettivata quella cosa che si prova? Puoi dargli un nome? Faccio fatica a seguirti, sai? Nel senso che non è necessario dare un nome. Perché vuoi dare un nome, scusa? La senti? Per sentire cosa si prova. Cioè, adesso tu dici che senti questa cosa. Sì. Ma come me la puoi spiegare questa cosa? Così? Dice, è una sensazione molto più sottile. Già dicendo così, significa che, non so, ti faccio un esempio. Un quadricipite che ti fa male. No? Finché stai meditando è un'ora che mediti, sei da un'ora seduto così, quindi a un certo punto ti parte un quadricipite e comincia ad avere un grande dolore. Inizialmente, siccome non c'è una capacità di osservazione sottile della realtà, semplicemente sentiamo il quadricipite che fa male, ok? Tutto il quadricipite. Cosa facciamo? Invece che indagare, come ci viene detto qua, ci alziamo, cominciamo a massaggiarlo, non c'è niente di male in questo. Che cosa ci dicono invece i testi e cosa ci dice il Vipassana? Stai nel dolore. Ma cosa vuol dire stare nel dolore? Vuol dire che io mi metto a contatto mentalmente con il dolore della mia coscia e comincerò a vedere, ad esempio, che il dolore del quadricipite non è un dolore unico, ma ad esempio pulsa. Cosa vuol dire che pulsa? Vuol dire che c'è un acuirsi è un attenuarsi, un acuirsi e un attenuarsi. E in quell'acuirsi e attenuarsi cosa succede? Ci sarà una piccola pausa. In quella piccola pausa c'è un sollevarsi da quel dolore. E allora mi infilo in quella piccola pausa e mi accorgerò che questo pulsare ritmico arriva ad una radice che ha un punto preciso, che non è più un grumo grossolano di dolore, ma magari uno o due punti da cui scaturisce quel dolore. E magari in quel dolore mi posso infilare, e quel dolore probabilmente sotto quella radice c'è una grande pace, magari c'è una grande serenità, c'è la calma sotto, e riesco a stare in quel punto lì, non ascoltando più quel dolore. Ma per arrivare lì devo avere una capacità di osservazione e di immergermi nelle mie sensazioni che attualmente non ho. Un po' più chiaro così? No, è chiarissimo. Perfetto. Allora, l'altra cosa su cui voglio coinvolgermi, poi faremo un po' di respiro corpo e basta, è questa. Sull'indagine interiore e lo sviluppo delle qualità dell'essere. Questa è a cura di un altro dei miei insegnanti, che era un Gelupa, se non sbaglio. Sono sempre scuole buddiste. Quando si riesce ad acquisire una certa abilità di indagine, cioè quella roba che abbiamo visto prima, poi questo ve lo passo, fronte retro, così ve lo tenete, me lo ricordi? Tramieti. Vabbè, insomma, speriamo di ricordarsi. Sì. Quando si riesce ad acquisire una certa abilità di indagine introspettiva, quindi questo percorso comincia a diventare un percorso rodato. Come avete visto, quattro stati di consapevolezza: corpo, sensazioni, contenuti mentali, mente, inseriti in un percorso. Riconoscimento, accettazione, indagine, quattro, e poi alla fine la disidentificazione che sarebbe inserita. Quando si è presa un po' di abilità in questo percorso, sia all'interno della meditazione sia durante la vita quotidiana, questo mi interessa di più, la comprensione dell'impermanenza, della sofferenza e dell'interdipendenza si rivelano molto più agevoli. Non possiamo entrare in questi termini, in questi tre termini, perché sono una delle nature del buddismo, però l'impermanenza può essere già spiegato, cioè ogni fenomeno sorge e si dilegua. Sofferenza, perché abbiamo parlato che stiamo lavorando su trovare la radice della sofferenza, lasciando andare. Interdipendenza è perché tutti i fenomeni sono tra loro correlati e collegati, cioè nessuno è un'isola, ma siamo tutti collegati tra di noi sotto vari termini. Però lo sapete benissimo, quando siete inseriti in un ambiente familiare, lavorativo, eccetera, ci sono come dei fili di energia che si tirano dall'uno all'altro. Quindi basta uno sguardo messo male, basta un messaggio, basta, e tutto cambia in un ambiente, tutto si modula, ok? Attraverso un'indagine di questo processo dovrebbe, in modo quasi naturale, derivare una profonda comprensione del fluire delle cose, della natura transitoria dei fenomeni che appaiono nella nostra mente e del loro sorgere in dipendenza di altri fenomeni, come ad esempio la mente stessa. Inoltre, osservando il flusso mentale, si scoprono momenti di malessere e momenti di apertura e libertà, e si impara a stare con essi. Scoprendo i momenti di apertura, essendo capaci di riconoscere i momenti di apertura, possiamo cercare di allargarli, toccando le potenzialità della mente e lasciando emergere le nostre qualità interiori che sono simili a quelle del Buddha. Esse sono quelle qualità positive che, se coltivate, vanno a costituire il terreno fertile indispensabile per la nostra crescita interiore e per il benessere. Sono le qualità che ristrutturano il nostro ambiente mentale e lo rendono idoneo a lasciare emergere tutte le sue potenzialità e accogliere soddisfazione e felicità. Cosa significa? Che tutto questo lavoro ci rende adatti poi all'illuminazione, magari piccole illuminazioni iniziali, piccoli scatti, ma ci rende adatti. Attualmente abbiamo un terreno tossico, cioè un terreno dove anche se il divino buttasse i semi, ok, sarebbe la classica roccia dove il seme rimbalza e poi muore. Quindi tutto ciò che dobbiamo fare non è rincorrere l'illuminazione, ma dobbiamo occuparci di togliere le erbacce, dissodare, vangare, ok, preparare il terreno. A perché ciò avvenga? Non è sempre negativo così. Quello che abbiamo noi è molto positivo, ma è, diciamo. Però sai, se fosse in termini positivi non avremmo bisogno di fare queste robe. Non avremmo alcun bisogno. Non è una questione che non è positivo. È positivo, ma è sommerso di negatività. Quella negatività noi facciamo altro che toglierla per riscoprire quel positivo. Se no non le faremmo, non ci sarebbe nessuno. Ma il positivo è chiaro che c'è, va scoperto però. Cioè io non sto parlando di noi o di voi, io sto parlando di come siamo nella relazione, di come siamo nella... No, cioè se in effetti non ci fosse da fare questo lavoro, la società non sarebbe quella che viviamo. Sarebbe tutt'altra la società. Io non so dove vivi tu. Ma qualsiasi relazione in questa società, guarda gli ultimi 2 o 3 anni, ti sembrano relazioni sane? Ti sembrano relazioni che hanno al fondo quel buono che so che c'è ma che non viene espresso? Non so, forse io vedo un altro mondo allora. Ma la predisposizione è in tutti, in noi alberga una scintilla divina. Però ci sono vari livelli di predisposizione. Sì, chiaro, chiaro. Io parlo di una scintilla divina che c'è in tutti noi, ma che non può risplendere, perché il modello di vita che abbiamo in qualche maniera acquisito e nel quale siamo immersi un po' ci proibisce o ci trattiene dall'esprimerla. Perché le relazioni che ci sono attualmente, io collaboro con decine di psicoterapeuti, psicologi, e mai come negli ultimi 5 anni hanno liste d'attesa lunghe come chilometriche, mai come negli ultimi 5 anni, cioè già pre-Covid, mai. Quindi questo significa, per il mio spaccato di esperienza, che non stanno migliorando le cose, stanno peggiorando, sempre tenendo fermo il fatto che in noi assolutamente c'è il bene, perché in noi alberga quell'anima, angelo solare, corpo di gloria, che è un sole, ed è un sole che splende in una maniera pazzesca, ma non può splendere perché abbiamo sopra strati e strati di nuvole, chiamiamole nuvole se non vogliamo, io le chiamo immondizia, non vi piace perché è un po' così, chiamiamole nuvole. Croste. Quindi sono per il pro, se no non farei questo mestiere, non starei con la mia, sono per il provare a farle tutte per togliere quelle nuvole. Ma quelle nuvole ci sono e purtroppo stiamo andando verso un periodo in cui quelle nuvole saranno sempre più nere. Allora, guarda, io penso questo, ti capisco benissimo, conosco la psicologia, conosco la psicanalisi, conosco il malessere, conosco tutto quello che hai detto. Mm-hmm. Però ci sono persone che hanno che vedono tutto questo, sentono che sono in un mondo in cui non vorrebbero essere, che non incontrano quello che vorrebbero, ma non perché uno vuole più giocattoli, vuole, sente che non, questo mondo non fa parte di quello certo. che vorrebbe. E a un certo punto conosce delle persone e sente che parlano di queste cose, dice io queste cose le sapevo già da prima, sì. le volevo, non tutti sono in questa disposizione d'animo secondo me, le volevo, però adesso tu me le dici, tu me le racconti ed è quello che volevo, non è una cosa sconosciuta per me. Questa secondo me è una forma di, o per la famiglia, o per i dolori, o per quello che vuoi, che ti porta come, che poi non ci sono cose che ti portano secondo me, ci sono, non lo so, una questione di anime, di ereditarietà, mettiamoci tutto, ti porta a dire io quella cosa la conoscevo e voglio fare quella cosa. Certo. Ma questa io la chiamo, chiamiamo la predisposizione. Ma una persona che è predisposta è una persona che in qualche modo, allora sono due le cose, o tre al massimo. Uno o non ha alcun tipo di questo afflato interiore, quindi vuol dire che già per conto suo è in grado di sviluppare queste qualità interiori, perché magari per predisposizione, per buona nascita, per buon karma, perché la sua vita è un percorso di vite che l'ha portato già in grado di, oppure è una persona che non ha alcun tipo di conoscenza di questo ed è semplicemente immerso nel più totale caos. In mezzo ci siamo noi, quelli che un po' si stanno risvegliando, vedono che c'è la possibilità di far risplendere questo sole e ci provano. Ecco, io penso che quelli che seguo io da tanti anni, cioè i gruppi, sono di questa fascia. Non andrei mai a rompere le balle a quelli che sono immersi nel caos perché gli produco sofferenza. Non andrei mai a dirgli a quelli che hanno già invece la visione molto chiara, anzi andrei a chiedere a loro magari un consiglio. Io, i maestri che ho avuto nella mia vita sono persone che mai parlerebbero di queste cose qua perché sono già in quello stato. Completamente aperti, completamente in grado di stare ovunque e di non essere mai spostati da nessuna emozione negativa distruttiva, in grado di essere in contatto con chiunque e c'è un totale radicamento. Non è che basta poco e il loro umore crolla o il loro umore sale, basta una notizia e ti vengono in mente 10.000 pensieri, come farò, come non farò, perdo il lavoro. Sono quasi maestri o maestri che sono perfettamente integri, hanno questa capacità e quindi equidistanza, saggi, una volta si chiamavano saggi, e questa saggezza interiore la portano con sé tutto il giorno, tutti i giorni, non meditano mica, non gliene frega niente di meditare. Quando meditano lo fanno per il gruppo di allievi che hanno e meditano con loro. Ma non è una meditazione personale, perché loro hanno già raggiunto quello stadio, semplicemente mettono a disposizione degli allievi il loro grado di energia sottile, perché c'è un'aura che tutto pervade e che la meditazione tua ne beneficia della sua. Ma io non so, se qualcuno di voi è già lì, ha sbagliato corso? Cioè richieda i soldi indietro? Ma prima o poi arriviamo tutti? Tutti, anche quelli che sono, arriviamo tutti. Ma vedi l'esempio che hai fatto te giustamente prima, che l'evoluzione è una spirale, no? Di conseguenza ti trovi dove ti trovi, con tutte le stratificazioni da togliere. Per cui se mi sono a base della spirale, la mia consapevolezza non può essere quella che magari andando sempre un po' più su, certo. per arrivare certo, poi certo. a togliere il comportamento, che sia con l'esterno, con il lavoro, con la famiglia, che sei il banco di prova, che è quello che seguono altri, insomma. Poi e io... anche il giudicare quelli che... Là, sicuramente mi serve anche l'osservazione anche del stroccolto, cazzo, riga, chiuso, Sì, una marcia in più del gruppo di anime che Esedrio fa, certo, fare il passaggio, parlare su i piani più alti e via via, insomma. Certo. Per cui ben venga, ti arrivi mi qua per farsi una punta di una critica. Ti arrivi come sto oscurità, perché ha fatto anche il libro bellissimo, giustamente, mi invece vedo positiva. Sì, ma io... Non so, magari sbaglio, perché... Mi dispiacerebbe che venisse passata come negatività. No. È un esempio che io faccio, perché nella vita di tutti i giorni, almeno questo è quello che io vedo con gli allievi che ho nei vari corsi e con i dialoghi, con i colloqui che faccio con le persone, io vedo che questo stato di benessere, come tu dicevi giustamente prima, no? Questa positività, le persone anche le più positive lo vivono a sprazzi. Cioè non vivono questa continuità, hanno dei brevi momenti di felicità e di luce, chiamiamola così, in cui sono totalmente in pace con se stessi e con gli altri, ma sono momenti molto brevi per poi reimmergersi nei, tra virgolette, casini della vita. Allora, quello che si prova a fare qui, chiaramente non con 2 mesi di pratica e neanche con tutti i 5 mesi, è di raggiungere uno stadio, uno stato d'essere che mi permetta di essere in quella luce sempre e a prescindere da ciò che capita fuori. Cioè, questa roba qua che vi sto leggendo, quello che abbiamo fatto in 6 mesi, non ha alcun valore se come meta non ci diamo l'idea di stare in quella luce, di trovare il modo di stare in quella luce tutto il giorno, tutti i giorni, da qui all'eternità. Non so se rendo bene l'idea, cioè il fatto di vivere ogni tanto del benessere, ogni tanto della pace, della... vuol dire che quella luce semplicemente c'è, ma sono le condizioni esterne che me la fanno vivere quella felicità o no? Quelle condizioni esterne non devono più inficiare quella luce. Una volta che comincio a splendere, devo splendere a prescindere. Noi però apriamo delle brecce. Come? Noi apriamo delle brecce. Sì, sì, sì, su questo sì. È una cosa su questo importantissima, sì. Questa, cioè... Ma è facendo questa cosa qui che creiamo delle brecce. Quindi la breccia ha una valenza... Beh, perdonatemi perché forse non riesco... Ma qual è il quid su cui non so? Non c'è nessun quid, allora ci sono... non c'è nessuna questione, non c'è nessuna questione. No, perché non riesco a capire, se non riesco a spiegarmi... No, ti spieghi benissimo, anche ho capito benissimo che cosa pensi. E, comunque io dico questo, ecco, noi abbiamo delle brecce e questo è molto importante. Certo, assolutamente. Ecco, il punto fermo che mi piacerebbe passarvi è il fatto che questo tipo di percorso, perché io insegno meditazione? Perché la meditazione in fondo è una via, è proprio la via per far splendere questo sole. Che noi lo sentiamo che splende, lo sentiamo di essere, questo sì, anche praticando poco, dopo pochi mesi sentiamo che c'è qualcosa in noi che è vivo, che è luce, ma non riusciamo ad esprimerlo quando siamo magari immersi nella vita di tutti i giorni. E come mai? La differenza è, diamo la colpa al fuori che non riusciamo ad esprimere ciò che è dentro. E invece io posso dire, tramite la mia esperienza, che è il fuori che ci spingerà a fare splendere il dentro. Ok? Cioè, è proprio quando noi capiremo che, spostando il punto di vista, sentiremo che il fuori è lo stimolo per fare in modo che il dentro splenda. E invece normalmente veniamo cresciuti, educati, pensando che il mondo è brutto e cattivo, ok? E che il mondo ci vuole male. Questo è uno dei modi di vedere. Per cambiare però questa visione del mondo, dobbiamo cominciare a prendere prima contatto con sé e poi a vedere che ciò che accade fuori è riflesso di ciò che ho dentro, e quindi più pulisco il dentro, passatemi il termine pulisco, più il fuori risplenderà. Non so se ho reso l'idea. Cioè, questo, nei testi è scritto, questo è il migliore dei mondi possibili. E uno dice, ma stai mica scherzando? Che c'è un casino della Madonna. Il migliore dei mondi possibili significa che io posso usare un termine brutto, posso stare in questo mondo nel migliore dei modi possibili, solo cambiando, anche cambiando atteggiamento, anche cambiando modo di essere. E questi percorsi ci indicano qual è il giusto modo per loro, ma anche per me, io l'ho adottato, il giusto modo per raggiungere quella luce che c'è, splende, ma non riusciamo ad esprimerla. Ok? Va bene. Ci siamo giocati tutto il tempo così, ma è molto utile, è molto utile. Il resto poi ve lo leggerete per conto vostro. Ma è importante che non rimangano dei dubbi, nel senso, io non sarò io a fugarli tutti i vostri dubbi, ma quello che a me interessa è che se non altro sia chiaro il punto di vista della mindfulness, che ha le radici nella psicologia buddista. Ecco, quello a me interessa. Poi è un modo di vedere il mondo, non è il modo, è un modo di vedere il mondo. Questo, anche questo deve essere molto chiaro. Cioè, una volta che voi avrete appreso questo modo, se sentite che vi sta stretto, che stride, che per la vostra natura non è proprio quello che cercavate, cercate dell'altro, non incaponitevi. Però questo modo di vedere il mondo, da come ci dicono loro e da come fino adesso ho potuto esperire, funziona. Funziona. È una roba che va, cioè funziona. E quindi funzionando cerco di proporla. Ma ce ne sono tante altre, tipo si può affrontare le vie alchemiche, si possono affrontare le vie dell'astrologia umanistica, non so, adesso capite, ci sono tante vie che portano alla verità, che è la verità in questa luce che splende dentro di noi a esprimerla, no? Pensate al percorso alchemico, ad esempio, no? L'alchimia ci insegna come trasformare il piombo, perché all'inizio è piombo, in oro, alla fine è oro, ma all'inizio è piombo. Quindi dalla nigredo, che è il primo passaggio, si passa via via alla rubedo, che è questa esplosione di luce. Ma ci deve essere l'oro dentro al piombo, perché se no non puoi trasformarlo e farlo diventare oro. Ma il processo trasformativo è quello che lo fa trasformare in oro. Ma inizialmente partiamo che siamo piombo. Ok? È la stessa roba che fare sta roba qua, solo che questa è la via alchemica, che a mio modo di vedere è molto più complicata. E poi trovare un alchimista adesso è un disastro. Trovare un alchimista, io l'ho conosciuto uno bravo, ma uno spagirista. Conoscete la spagiria? No. Spagiria è l'antica pratica della trasformazione egiziana, di radice egiziana, antico Egitto. Ce ne sono pochi in giro, ma c'è quello che faceva la gamma 5 per caso, Caracusu. Era un personaggio da Udine. Da Udine? No, questo è del centro Italia. Ecco, quindi la preghiera è quella di mettere in dubbio sicuramente tutta questa roba qua, però cercando di approfondirla e tenendo fermi due o tre capisaldi, cioè il fatto che in noi questa scintilla splende e che per mille problemi siamo stati costretti a ricoprirla, insomma, no? Ecco. Che bel lavoro. Ma secondo me è un lavoro molto interessante, sì, no, però... Ma dicevo anche per le generazioni, no? Iniziando in una società utopica a questo momento qua. Va bene, la scuola. Però non mi occuperei della società, mi occuperei del fatto che noi abbiamo il nostro lavoro da fare, insomma. Ecco. E dopo via via si fa questo. Altre domande? Sì, io. Sì. Prima hai parlato, facendo un esempio con lei, del fatto che effettivamente nel momento in cui io sono nella pratica meditativa, ad un certo punto sono i dolori, sì, no, sì, la, sì, la, sì, possibilità, sì, fino a quando effettivamente, certo, ci trovo la cosa positiva e quindi il dolore svanisce. Okay. Sì. Ci possono impiegare 5 ore tutto quanto quello che è. Chiedevo, nel momento in cui sono in meditazione ho capito, ok, ce la posso fare, ma nella vita quotidiana, nella realtà quotidiana, come faccio a rendermi conto che effettivamente quella cosa è il dolore, certo, e che devo uscire? Perché è più immediato, cioè dovrebbe essere, certo, più immediato. Allora, quello che ci dicono loro è che questa roba qua, stare qui, sì, ci allena poi a stare lì. Cioè, è come se mettessimo in moto dei meccanismi che ci aiutano poi anche quando siamo nella vita. Cioè, quella parte di consapevolezza che io ho chiamato presenza, sentinella, eccetera, più diventa solida e più poi affronterò la vita di tutti i giorni in questo modo. È come mettere in piedi una modalità nuova. Diventa un'attitudine. Sì, bravissima, la parola magica è quella. Ci rendiamo conto che in quel momento si sta innescando una modalità che normalmente ci porta alla sofferenza, ci portava alla sofferenza. E quindi la scintilla che scaturisce è: aspetta un attimo, fa, io normalmente qui cosa faccio? Comincio a seguire la normale modalità e si arriva poi che cado in depressione, oppure mi porto alla tristezza, oppure dopo mi incazzo. E allora, mentre se io qui lavoro per stare in questa presenza, irrobustendo la sentinella, l'osservatore, poi quando sarò nella relazione di tutti i giorni mi accorgerò che sto entrando in quella modalità, che è la solita modalità che porta sempre a quei risultati che sono risultati di sofferenza. Quindi cosa farò? Qui ci dice, comincerò ad accoglierli, ad accorgermi, a riconoscerli, cioè a riconoscere questi meccanismi, e invece che rifiutarli, no, li accolgo, mi apro ad essi. E questi piano piano entrano in me e io li integro nella mia consapevolezza e vedrò che quella parte di me è semplicemente una parte reattiva rispetto all'esterno, e quella parte reattiva, una volta che l'ho riconosciuta e integrata, accadrà in me una trasformazione, non sarò più il Demetrio di prima, quello solito che imbastiva, si arrabbiava, si intristiva, si angosciava, non sarà più così, ma si innescherà un meccanismo di cambiamento. Perché? Perché avrò compreso quella mia parte. Ok, quindi devo comprenderla. Adesso l'atteggiamento sarà diverso, non so, se sei una che, non so, si intristisce perché qualcuno, quando hai un dialogo magari, oppure quando vedi qualcosa alla TV, oppure ti vai un po' in depressione, oppure ti arrabbi, ti accendi, vedrai che ci sarà una parte di te che si accorge che questa parte si è accesa o comincia ad intristirsi. È come se fossi più presente in quel momento, no? C'è maggiore presenza. Essendoci maggiore presenza, questa emozione che scaturisce è meno forte. Posso, io adesso non so se a proposito di affinare le cose, sabato sera per esempio, non so se è merito di quello che stiamo facendo, certo, però è successa una cosa che mi aveva rattristato. Quando sono salita in macchina per tornare a casa ho detto, ma che cos'è questa brutta sensazione che ho? Non è la solita tristezza, è un misto di angoscia, è un misto di, ma che cos'è? Mi sono fermata che, no, io non la voglio questa cosa qua, certo, la restituisco al mittente. Certo. Tieni il tuo atteggiamento, io non passo domani una giornata, una domenica rovinata per questa cosa, te la restituisco. Te ne sei accorta? È una cosa che avevo letto, no? Quando uno ti dà un regalo, scusa. Sì, sì, poi. No, cioè, è un insieme di tante sensazioni che prima avrei detto, mi sono incazzata, ecco. Certo. E però dici, no, tutto questo. Però c'è stato l'atto di accorgersi, sì, no? Di essere presenti a. Normalmente invece questa roba va un po' nel dimenticatoio, facciamo di tutto per dimenticarci, ma lì tu hai preso contatto e poi l'hai lasciata andare. Oppure la lasci lavorare, no? Un giorno dopo. Oppure la lasci lavorare, brava. Ti svegli e comincia di nuovo questa roba. E invece qui te ne sei accorta e l'hai lasciata andare. Ma questo è il meccanismo. È un meccanismo completamente diverso che si affinerà nel tempo. Cioè, più la mia presenza sarà in pace, luminosa, accudente, aperta, tutte le qualità positive che potete mettere sono quelle di quella presenza che abbiamo dentro, che purtroppo però non riesce mai ad esprimersi perché è stratificata, come dicevo prima, da tutti gli atteggiamenti che abbiamo nella vita e che però servono a sistemare momentaneamente le cose. Più stiamo in quella parte più profonda, che stasera abbiamo definito anche luminosa, più riusciremo ad accorgerci di queste parti che sorgono. E queste parti poi le possiamo osservare, accogliere e lasciare andare. Ok? Scusate, posso dire quella cosa del regalo, cos'è? È una cosa che avevo letto, no? Per esempio, si dice che se una persona ti porta un regalo e tu lo rifiuti, è un esempio, di chi è quel regalo? Non più tuo, perché tu hai detto no, grazie. Quindi nello stesso modo quando una persona ti offende o ti fa un torto, tu puoi girarti dall'altra parte, tienitela la tua offesa. Diciamo che in soldoni è il lasciare andare che viene spiegato nel buddismo. Ad esempio nel cuore saggio ci sono proprio delle pratiche del lasciare andare. La parte iniziale però è quella di accogliere questa parte, perché la cesura fine a se stessa può portare a creare inconscio. Invece noi cerchiamo di accogliere e poi di lasciare andare, cioè di lasciare che questa cosa fluisca via. C'è prima un atto di accoglienza, però. Quindi che è un po' l'accorgersi, ma aperto, però non rifiutando. Sì, quello di sabato sera dire, mamma mia, cos'è sto bagaglio, sì, tristezza. Certo, c'è il momento in cui ti sei accorta, certo. Beh, sì, è vero, qualcosa mi ha ferito, mi ha turbato, io non voglio stare così, quindi... Mi concentro, sì, l'ho riconosciuta, torno su di me, io non voglio domani mattina riprendermi questo orario qua. Certo, quindi c'è già l'accorgersi, capite? Nella pratica questo accadrà, non potete pretendere dopo 2 mesi, ci vorrà tempo, ma vedrete che già comincerà in voi a esserci un po' di presenza durante la giornata. Va bene, dai, vi ho fatto fare tardissimo. Che ti ho detto prima, che può inserirsi la prossima volta o qualche persona che volesse capire un po'. Il corso quello dopo però quello... deve avere già una pratica. No. Va bene, grazie della chiacchierata anche. Se avete domande scrivetemi pure. Quindi no, se non ti scriveremo, no. No, ma facciamo.